l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale con l'altra Europa, le sfumature, i punti di vista, quello di cui magari non si è parlato durante la settimana, l'Europa che viene raccontata quotidianamente da Radio 24 nei suoi percorsi economici e politici. Noi cerchiamo appunto di dare anche altri approfondimenti. Potete seguirci attraverso le nostre pagine internet, facebook.com/l'altra Europa, oppure Twitter, l'account, il mio personale, @ Federico Taddia, pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio diverso. Oggi si parte dall'Islanda. Rapporto inscindibile quello tra Björk e l'Islanda. Usiamo sempre Björk con le sue sonorità per farci accompagnare là a nord dell'Europa, in questa nazione che non sta nell'Europa, che ha un rapporto strano, contraddittorio, pieno di ambiguità, pieno di diverse ondate. C'è voglia di Europa a volte, però poi si prendono subito le distanze. C'erano dei negoziati avviati per l'ingresso nell'Unione Europea, negoziati però che in questi giorni, in queste settimane sono stati sospesi perché in Islanda si sta entrando in campagna elettorale, quindi c'era probabilmente il timore che questi negoziati diventassero il centro della campagna. Per capire quello che sta accadendo abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa, diamo il ben ritrovato a Tora Harnonsdottir, che è collega giornalista della TV nazionale islandese. Ciao Tora, ben ritrovata. Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Sto bene. Tora, tra l'altro... Grazie. Hai avuto, insomma, sei stata anche protagonista mesi fa della stampa anche italiana, perché ti eri candidata per le presidenziali, giusto? Poi non siamo riusciti a parlarci in quel periodo perché eri impegnatissima. E, sì, è vero. È vero. È vero, ho ricevuto un terzo dei voti, quindi è andato molto bene. È stata una bella esperienza? Ti sei pentita? Assolutamente. Ah, ok, bene, bene. E, Tora, cosa sta succedendo? Questo rapporto sempre complicato tra Islanda e Unione Europea, negoziati che erano partiti, negoziati che erano entrati anche in una fase così preliminare, ma erano negoziati veri o solo di facciata? L'Islanda ha voglia di entrare nell'Unione Europea? È una bella domanda, infatti tu l'hai descritto in un modo un po' giusto, perché allora nel 2009, qualche mese dopo il crash, il nuovo Parlamento, il governo di sinistra, ha deciso di fare la richiesta per l'adesione all'Unione Europea. Sì. Poi sono passati più di 3 anni e, per dir la verità, è una situazione stranissima. Uno dei partiti del governo, i Verdi Sinistra, infatti sono contro l'UE, che l'Islanda faccia parte dell'UE, e quindi hanno detto sì, possiamo fare la richiesta, possiamo fare tutti questi negoziati e vediamo che c'è, cosa possiamo fare, ma siamo, poi noi lottiamo contro. E questa è una situazione molto strana per un paese che fa la richiesta e fa i negoziati. Io mi immagino di far parte del gruppo che fa i negoziati, che manca un po' il sostegno da casa. Certo. E adesso è successo, dopo più di 3 anni, che i Verdi Sinistra hanno detto allora, fra qualche settimana, alla fine di aprile, abbiamo delle elezioni, adesso bisogna rallentare i negoziati, non apriamo un altro capitolo, finiamo magari quello che stiamo facendo adesso, ma rallentiamo. Non hanno detto chiudiamo, cioè concludiamo, ma hanno detto rallentiamo, bisogna rallentarlo, che vuol dire quello molto ambiguo, perché non vogliono che la domanda dell'UE faccia, sarà che le elezioni saranno solo intorno a questa decisione, a questa scelta. Ricordiamo, e guarda, per 20 anni abbiamo avuto questo discorso, l'UE non l'UE. I sondaggi mostrano che la metà della popolazione vuole finire i negoziati e fare il voto, così sappiamo. Un terzo vuole finire, smettere, sospendere i negoziati, e 15% vogliono almeno fare una pausa. E il dibattito, guarda, è su dei termini molto emotivi. Mm-hmm. L'anti-UE movimento gioca un po' sulla paura dei grandi paesi, che l'Islanda è piccolo, ma noi siamo ricchi. Certo, ricordiamo che sono 320.000 gli abitanti islandesi, quindi insomma una popolazione non ampia, però con tante posizioni diverse. Ma la questione centrale circa l'adesione o meno rimane prevalentemente quella sulle quote pesca ed agricoltura? Appunto, quelli sono i capitoli più importanti per noi, perché la pesca fa circa il 40% della valuta. La valuta estera, quindi la pesca, abbiamo l'energia pulita, abbiamo tanti risorsi naturali, ma la pesca ovviamente fa un ruolo centrale, siccome l'UE ha questa si dirige tutta la pesca lì, ci sono regole, certo, lì non vogliono lasciare. Capito. Insomma, il dibattito continuerà. Tora, ci ritroveremo sicuramente comunque in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, anche per seguire le elezioni in Islanda, vedere un po' quelli che saranno gli sviluppi. Mi sembra che saranno delle elezioni molto, molto da seguire. Uh-huh. Tu cosa stai facendo in questo momento in televisione? Programma politico o continui con le tue inchieste giornalistiche ad ampio raggio? No, infatti sto facendo, perché durante la campagna presidenziale, sì, ho avuto il mio terzo figlio. Anche. Sono stata a casa, adesso sono appena ritornata al lavoro nella TV e faccio qualche programma, sì, prima delle elezioni. Bene, buon lavoro, in bocca al lupo, grazie davvero come sempre, ciao e buon sabato. Grazie, anche a voi. Mi chiamo Ana e sto vivendo temporalmente fuori di Spagna, studiando con una beca Erasmus. Si te encuentras en mi misma situación, puedes votar en las elecciones del 20 de noviembre y renovar tu compromiso con los valores en los que crees, con la igualdad, con el medio ambiente, con los servicios públicos. Para ejercer tu derecho al voto si vives temporalmente fuera de España, debes acudir a tu consulado u oficina consular del 27 de septiembre al 22 de octubre e inscribirte en el registro de matrícula consular de no residentes. En ese mismo momento, è la voce di una ragazza spagnola che sta facendo l'Erasmus e parla delle elezioni, del come votare. E usiamo questa voce per rilanciare con forza, con potenza, l'appello, la protesta, il movimento che si è avviato in questi giorni. Il tutto è nato su Facebook, dove si è avuta la cassa di risonanza della voce, dell'urlo dei 22.031 studenti italiani che stanno facendo l'Erasmus, ma il numero aumenta ancora se poi si pensa alle borse Leonardo, alle tante possibilità che i ragazzi hanno di frequentare periodi di studio all'estero. La voce è una, la richiesta è una ed è quella: vogliamo votare, vogliamo poter votare senza dover spendere soldi per acquistare un biglietto aereo e tornare in Italia. Vogliamo votare perché è un nostro diritto, vogliamo votare perché vogliamo dire la nostra, perché siamo comunque protagonisti della nostra vita sociale, anche se in questo momento stiamo studiando fuori dall'Italia. questa voce per fortuna ha fatto il giro dei quotidiani, per fortuna è stata ripresa. Lo stesso ministro Profumo, abbiamo ascoltato poco fa durante il GR, ha detto sì, bisogna fare qualcosa per far votare gli studenti italiani che stanno frequentando l'Erasmus e non solo. Abbiamo una delle voci protagoniste di questa protesta, è una studentessa Erasmus in Inghilterra. Diamo il benvenuto ad Alessandra Porfido. Ciao Alessandra, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Un urlo, credo che sia questa la definizione. Un foglio di carta igienica su cui è scritto questo è quello che vale il mio voto, ovvero scelto come logo. Da dove è nata questa consapevolezza? Da cosa è nata l'esigenza di alzare la voce per poter votare? L'idea di Bath è nata da un'idea di Valentina, che è appunto una studentessa Erasmus a Bath. Lei ha cercato il modo per poter votare nelle elezioni di febbraio e ha scoperto che noi non eravamo inclusi nel decreto legge che regolava le votazioni di voto dall'estero. E di conseguenza ha lanciato l'idea Facebook e ha avuto appunto una cassa di risonanza enorme, ha avuto l'appoggio di tutti gli studenti Erasmus, ma anche di tutti quelli che si trovano all'estero per altri progetti, anche lavoratori per esempio, e siamo riusciti appunto a diffondere la nostra idea, il nostro urlo, la nostra preoccupazione perché non potremo partecipare alla vita politica ad una scelta decisiva per il nostro futuro, appunto per questa diffondere su tutti i quotidiani. Mm-hmm. Alessandra, appunto poi si entra un po' in tecnicismi, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con Maria Chiara Prodi, si parlava della legalità del voto italiano all'estero. Di fatto il decreto legge prevede che ci sono varie categorie tra le quali appunto sono esclusi gli studenti, se non chi per motivi di studio sta fuori Italia oltre i 12 mesi, ma quasi tutti i programmi Erasmus sono di una durata inferiore, quindi è questo il dilemma, è questo il buco nero del decreto legge, giusto? Sì, sostanzialmente noi non siamo esclusi ufficialmente, siamo stati praticamente ignorati nel decreto. Nel decreto sono inseriti soltanto quei ricercatori che sono almeno da 3 mesi nel paese di destinazione, quindi c'è comunque anche un'altra grande fetta di ricercatori che non sono Erasmus e che sono stati comunque ignorati. Mm-hmm. Cosa accadrà ora? Nel senso, pensate ci siano i tempi per delle modifiche, per darvi la possibilità di votare, o ormai è una campagna lunga durata, cioè si ragiona già e si pensa già alle elezioni successive? In realtà proprio questa mattina abbiamo visto un comunicato del Ministero degli Esteri, sì, che appunto sottolineava il fatto che per noi non c'è possibilità di votare, perché appunto non ci sono i tempi tecnici per modificare le modalità di voto dall'estero. Tu cosa chiaramente farà? Prego. Ok, chiaramente come abbiamo sottolineato nel nostro comunicato stampa, la nostra idea si fermerà al 24 e al 25 febbraio. Abbiamo intenzione di andare avanti per modificare questa scelta anche a lungo termine. Tu di dove sei, Alessandra, e dove stai studiando? Io sono pugliese, sto studiando vicino a Newcastle, a Durham. E cosa farai per l'elezione? Hai già deciso? Prenderai un aereo e tornerai a casa? No, non ne ho né la possibilità economica né i tempi, perché qui ho alcune lezioni obbligatorie a cui non posso mancare. Ecco, e questa credo che sia la risposta più eloquente, nel senso che ci sono proprio dei problemi, problemi reali, nel senso che non è questione di pigrizia, non è questione di non voler votare, è che ci sono appunto problemi contingenti, che sono quello dei soldi, quello del volo e quello del tempo, nel senso che non siete all'estero a giocare ma state studiando, avete una vita, avete una quotidianità, avete degli impegni. Continueremo a seguire questa protesta, abbiamo già diffuso sulle nostre pagine in Facebook e su Twitter anche la vostra pagina, dove appunto poter seguire giorno per giorno, sperando che qualcosa possa accadere, anche se ahimè le speranze sono davvero poche. Ciao Alessandra, grazie a te che insomma ti sei fatta portavoce di questa istanza comune e insomma in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie, ciao. Abbiamo parlato di studenti Erasmus e abbiamo parlato di urlo. Quello che state ascoltando in questo momento è quello che accade ogni sera a Uppsala, siamo in Svezia. Attorno alle 22, dagli anni 70, gli studenti aprono le finestre, si affacciano e urlano. Una tradizione lontanissima, una tradizione che ha anche origini oscure di fatto, ma a noi che piace raccontare anche degli usi e dei costumi europei, ci ha catturato l'attenzione, quindi abbiamo cercato una studentessa a Uppsala, l'abbiamo trovata, adesso che è appena rientrata in Italia, una studentessa Erasmus, e diamo il benvenuto a Silvia Sabato, studentessa della Bocconi, che ha frequentato l'università a Uppsala. Ciao Silvia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Hai urlato anche tu da quelle finestre? Sì, sempre. Allora, raccontaci, perché detta così sembra appunto una goliardata, ma probabilmente anche lo è. Cosa accade a Uppsala ogni sera? Qual è il clima che si allora, vive? Allora, ogni sera alle 10 spaccate in punto, tutti gli studenti iniziano a urlare, e essendo Flogs un complesso davvero grande, ci sono circa 12 palazzi interi pieni di studenti, c'è questo urlo grandissimo e tutti partecipano, davvero tutti, cioè è raro non sentirlo. Perché di fatto è uno studentato, giusto, quello di Flogs? Sì, sì, è uno studentato, credo sia anche quello più grande di Uppsala. Ecco, tu sei arrivata, conoscevi già questa tradizione o ti sei trovata immersa nell'urlo collettivo a tua insaputa? No, siamo partiti in sedia da Bocconi e ci siamo trovati già la prima sera, sentiti questi urlava, non sapevamo niente, e quindi abbiamo chiesto spiegazioni a studenti svedesi che ci hanno spiegato che è appunto una tradizione molto sentita a Flogs. Tradizione che ha origini definite? Non meglio definite, si dice che sia per ricordare uno studente che si è suicidato negli anni 70, credo, ma altri dicono che è semplicemente per liberarsi dallo stress degli esami. Okay. No, non meglio definita la tradizione. Okay. Immagino non sia l'unica cosa che ti sei portata a casa dall'Erasmus, vero? No, però credo che sia un ricordo che non andrà via, cioè davvero una cosa strana, che sicuramente magari in Italia non c'è. Adesso che sei in Italia, ogni sera a Milano alle 10 ti viene la tentazione di aprire quella finestra, vero? Sì, ma griderei da sola, quindi... Grazie davvero Silvia per averci così dato un assaggio. Oggi si parla di urla, si parla di Erasmus, si parla di tradizione, anche questa è l'Altra Europa. Grazie davvero, ciao e buon sabato. Grazie, grazie a voi, ciao. Här kommer Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, utan ta. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett han Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, min villa ville kulla villa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre... L'Altra Europa, ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @ Federico Taddia. Stiamo andando in Svezia insieme a Pippi Calzelunghe, questa è la sigla in lingua originale. Andiamo in Svezia per parlare di scuola, per parlare in particolare di colloqui scolastici. Ho letto una bellissima testimonianza sul blog genitoricrescono.com, la testimonianza di come funziona un colloquio alle scuole elementari in Svezia. Questo è periodo anche in Italia di colloqui dei genitori, quindi mi piaceva il paragone. Abbiamo invitato la protagonista, l'autrice di questo articolo, è anche una delle coautrici del sito, e diamo il benvenuto a Serena Nobili, responsabile della comunicazione per il Dipartimento di Fisica dell'Università di Stoccolma e blogger del sito genitoricrescono.com. Ciao Serena, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao. Allora, tu oltre che sei mamma, che è il punto primo del tuo curriculum, direi, e in quanto mamma state raccontando insieme alle tue colleghe questa bella esperienza nel vostro sito. In particolare mi ha colpito però, come ho già detto, questa, questa tua testimonianza, questo tuo racconto. Noi siamo abituati in Italia che il colloquio con i genitori è l'insegnante che comunque dà appuntamento al genitore, ci si vede 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, si fa una lunga chiacchierata dove il genitore, l'insegnante racconta com'è il figlio a scuola, il genitore ascolta, molte volte non lo riconosce neppure quel figlio, e poi le solite domande, no? Dovrebbe studiare di più, i compiti li fa, insomma è abbastanza canonico come momento. Quello che tu invece hai vissuto, quello che tu hai raccontato è ben diverso. Esattamente, per noi dunque i miei figli io ho due figli, il più grande ha iniziato quest'anno la prima elementare, quindi siamo alla prima esperienza con questo mondo. Noi siamo una famiglia di italiani residenti a Stoccolma e quindi quando siamo stati convocati, diciamo così, chiamati per il consiglio, per il colloquio con gli insegnanti, non sapevamo esattamente cosa aspettarci. E già tutto è partito con una piccola differenza, ma tutto sommato notevole, ossia il fatto che mio figlio è tornato da scuola con un foglio, un paio di pagine, con una serie di domande da leggere insieme al genitore a cui il bambino doveva rispondere, e le domande riguardavano il suo modo di stare in classe o a scuola, come lui viveva il suo stare a scuola, il suo tempo lì. Sì. Quindi c'erano domande che riguardavano il suo rapporto con gli altri bambini, se aveva degli amichetti con cui giocare, se si sentiva aiutato dagli insegnanti, se l'ambiente era tranquillo e gli permetteva di lavorare concentrato. Altre domande riguardavano il cibo a mensa, se era buono, se pensava di avere abbastanza tempo, come si trovava a mensa, oppure il tempo passato in giardino, se funzionava bene, se si trovava in situazioni spiacevoli, se sapeva a chi rivolgersi in quel caso. E c'erano ovviamente anche domande che riguardavano lo studio, ma non erano le uniche, quindi se trovava lo svedese difficile o facile, o la matematica difficile o facile, tutta una serie di domande, quindi non soltanto sul rendimento scolastico, ma anche sull'ambiente di lavoro, insomma. Sì. Quindi questo l'ho trovato già una piacevole sorpresa. Comunque, insomma, viene richiesto di soffermarsi un attimo, una presa di consapevolezza del proprio ambiente, del proprio tempo, di quello che sta accadendo. Dopodiché, e il bambino doveva rispondere praticamente mettendo, sai, lo smile che piange o che ride, no? Quindi dando una valutazione, dicendo questa cosa va bene oppure no, insomma, non era così la cosa, quindi... E poi quando siamo arrivati al colloquio, il colloquio era insieme al bambino, ma non solo era insieme al bambino, il colloquio era tra l'insegnante e il bambino con i genitori presenti, quindi la maestra si è dedicata a tutta questa serie di domande che ha letto insieme a lui e ha discusso insieme a lui le risposte che lui ha dato, quindi nel momento in cui c'era qualcosa in cui lui aveva dimostrato insomma, che non andasse perfettamente bene, si sono soffermati a parlare di quegli aspetti. Mm-hmm. Ecco, e per il bambino com'è quel momento? Nel senso, c'è comunque imbarazzo, c'è emozione, c'è comunque l'occhio del genitore lì che guarda, quindi... Sì, è vero, però io penso che il fatto, dunque, mio figlio era rilassato, era tranquillo, sì, era un po' emozionato perché era la prima volta che gli succedeva di fare una cosa del genere, quindi non sapeva nemmeno lui esattamente cosa aspettarsi, sì. Diciamo. Però l'insegnante, la sua insegnante con la quale sta tutti i giorni, i genitori siamo noi, inoltre partendo da quel foglio che lui già aveva discusso insieme a noi genitori a casa, in tranquillità, quindi non c'era niente di paventoso veramente in tutto ciò, insomma. Mm-hmm. Non è sembrato un problema. E a te in quanto genitore è servito? Cosa hai capito? Cosa hai colto? Sì, mi è servito molto, e tutto mi è servito di vedere il rapporto tra l'insegnante e il bambino e vedere che comunque c'era moltissimo rispetto da parte dell'insegnante nei confronti di mio figlio, moltissimo ascolto e attenzione nei suoi riguardi, quindi nel momento in cui lui magari ha manifestato un po' di insicurezza su qualche aspetto, lei si è soffermata in modo particolare su quell'aspetto, perché voleva capire esattamente quale fosse il problema per pensare ad una soluzione. E quello che mi è piaciuto molto è il fatto che non ho mai avuto minimamente nemmeno la sensazione velata, cioè di un accenno velato a un senso di colpa o a dire non ti impegni abbastanza, non stai facendo il tuo meglio, cose del genere. Cioè, comunque da parte degli insegnanti c'è sempre stato molto incoraggiamento, l'attenzione era sempre rivolta alle cose positive più che alle cose negative. e quindi dire hai fatto molti progressi in questa cosa, stai riuscendo magari a leggere meglio, cose di questo tipo. Mm-hmm. Insomma, ci sarebbero credo mille cose di cui parlare, sì, vero? Poi magari ci torniamo in una delle prossime puntate dell'Alta Europa, anche cose che così ci incuriosiscono. Per esempio, è vero che escono tutti i giorni, vanno almeno 3 volte in cortile a scuola? Oddio, non tutti i giorni 3 volte, allora sicuramente 1 o 2 volte sono assicurate, a volte anche più spesso. Cioè tutti i giorni dell'anno, anche con 3, 4, 5, 6 gradi sotto zero, che immagino sia la temperatura media da quelle parti, sì, loro sì, escono. Esatto, oggi ci sono 15 gradi sotto zero, ma non solo, per esempio questo è ancora più vero ad esempio a livello dell'asilo, della scuola materna, in cui i bambini sono moltissimo all'aria aperta, sempre fuori, e ti racconto un piccolo aneddoto, sì, se abbiamo tempo. Il mio piccolo, che ha 3 anni, lo scorso inverno nel suo asilo praticamente si ammalavano tutti, sai quando arriva l'ondata di influenza, uh-huh, che si attaccano l'una con l'altro. E allora una mattina, lasciandolo all'asilo, la maestra mi ha detto: guarda che questa settimana abbiamo deciso di annullare tutte le attività all'interno, saremo fuori tutto il giorno, tutti i giorni, e rientreremo soltanto per l'ora di pranzo, perché abbiamo deciso di stroncare questa influenza. Vedi? Quindi loro, per evitare il contagio tra i bambini, li hanno fatti stare, e stiamo parlando di bambini di età compresa tra 1 anno e 3 anni, quindi molto piccoli, d'inverno con la neve, il freddo e tutto, hanno deciso di passare la settimana all'aperto, proprio per diminuire le possibilità di contagio, e devo dire che ha funzionato. Genitoricrescono.com, il portale. Serena, un'ultima domanda prima di salutarci, ecco, ma com'è un sabato di una famiglia a meno 15 gradi? Cioè, oggi cosa si fa a Stoccolma? Oggi si va sullo slittino, giustamente. E dove? In centro a Stoccolma ci sono piste per slittino? No, immagino si esce un po', si va a cercare sì, ci sono dei parchi, dei giochi in cui si può, dei parchi giochi all'aperto. Stoccolma è una città abbastanza Quindi parchi gioco con scivoli naturali, ecco, diciamo così. Sì, esatto, sì, esattamente. Benissimo, grazie davvero, alla prossima, ciao, buon sabato. Grazie a te, ciao Federico, ciao. Europost-it. Appassionati di fumetti, aspiranti disegnatori e sceneggiatori, dal 31 gennaio al 3 febbraio torna al Festival Internazionale della Bande Dessinée di Angoulême. Il pubblico, oltre ad avere la possibilità di votare per il proprio fumetto preferito, potrà ammirare le retrospettive dedicate ai mostri sacri del passato come Albert Uderzo e dare un'occhiata alle creazioni di giovani talenti emergenti. Inoltre, sarà presente una sezione interamente dedicata a consigli e suggerimenti per chi voglia intraprendere la carriera di fumettista, e la più grande libreria del fumetto del mondo, oltre ad un intero padiglione dedicato ai manga. Per maggiori informazioni, visitate il sito bdangoulême.com. So we waved our hands as we marched along, and the people smiled as we sang our song, and the world was saved as they listened. No, Linnea's writing. Chimpanzee with a crayon would be clearer. Give it here. Can I go out now? You go nowhere. It's a letter from your brother in Pakistan. Salam alaikum. Walaikum salam. What do you say? Walaikum assalam. Hiya all. Everyone here in Pakistan sends you their salams. Walaikum salam. Al via a Padova un master in studi sull'Islam d'Europa, un corso universitario post laurea aperto anche agli imam con laurea almeno triennale. È la prima esperienza probabilmente a livello europeo di un master che si pone proprio come obiettivo lo studio dell'Islam, contemporaneo e i rapporti con l'Europa. Tutto ciò è voluto affinché ci sia cultura, ci sia consapevolezza, ci sia conoscenza verso la strada dell'integrazione. E 2 borse di studio finanziate dalle ACLI del Veneto. Per capire il perché di questo master e quali saranno i punti cardini dello studio, abbiamo con noi Mohamed Khalid Razali, docente di sociologia dei diritti umani dell'Università di Padova e di istituzioni delle diversità culturali dell'Università di Lugano e co-direttore del master. Buongiorno Razzali. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Allora, un master in studi sull'Islam d'Europa. Cosa vuol dire studiare l'Islam d'Europa oggi? Diciamo che si ha come focus la presenza musulmana e il rapporto delle società europee con questa presenza. Noi siamo partiti diciamo con una prima edizione l'anno scorso, dopo aver capitolizzato, insomma, aver avuto capitale di partenza varie ricerche fatte in collaborazione con diverse università d'Europa e con ricercatori di una rete nazionale italiana. Sì. Diciamo, lei diceva all'inizio che si tratta di un'esperienza unica nel suo genere in Europa. Proprio così, perché è vero che ci sono delle università, anche come l'Università di Ca' Foscari, altre università parigina o inglesi o anche spagnole che negli anni hanno offerto delle proposte formative sul mondo musulmano. Padova è stata protagonista sempre in collaborazione con delle università come l'Università di Aix-en-Provence, come quella di Lovanio, come quella di Rabat e quella di Tunisi, per avviare questo lavoro di non solo di proposta formativa, non solo di ricerca, ma avviare una riflessione epistemologica e filosofica su cosa vuol dire appunto l'Islam d'Europa. Professore, anche qui insomma ci sarebbero mille implicazioni. La cosa che mi ha incuriosito è anche l'approfondimento invece proprio sugli ordinamenti giuridici delle varie nazioni per quello che riguarda l'inclusione, la mobilità sociale delle comunità musulmane. Ci sono veramente differenze sostanziali da Stato a Stato. Assolutamente, cioè diciamo che per un verso l'Europa insomma si è incamminata dal dopoguerra in un cammino di democrazia europea così in generale, diciamo che ogni Stato-Nazione, è vero che è implicata la dottrina Stato-Nazione, ma è vero anche che ci sono delle connotazioni legate a sistemi e tradizioni giuridiche differenti. Noi, se vogliamo, già con un primo livello c'è via differenza tra paesi del common law dove c'è una legge non scritta legata insomma a cioè che si presenta nel contesto anglosassone, e poi c'è quella il contesto continentale europeo. Questo è un primo livello, insomma, dove c'è una costituzione, dove c'è un ordinamento ben preciso. E poi c'è un altro livello, quello dell'organizzazione sociale. Siamo partiti tutti quanti, insomma, come sistemi europei con delle politiche dello Stato sociale, del welfare. Poi si è differenziati a seconda di quelle tradizioni giuridiche. I modelli di integrazione sono ad esempio quello pluralista, multiculturale anglosassone e in verità anche in Olanda questo è stato sperimentato, poi c'è il modello assimilazionista francese e poi c'è il modello del Gastarbeiter, insomma dell'immigrato ospite sperimentato fino agli anni 2000 che poi dopo c'è stata la riforma Schroeder che ha riconosciuto anche gli ius solide per ciò che riguarda i figli degli immigrati, e poi abbiamo insomma i modelli del sud Europa in cui l'Italia si inserisce, che è un modello non modello, alcuni sociologi individuano un modello implicito. È fondamentale soprattutto in una contemporaneità dove poi i rapporti con l'Europa e l'Islam diventano spesso rapporti con gli estremismi, quindi se manca quella che è una conoscenza vera, quella che è una cultura, si rischia di fare danni lo vediamo quotidianamente. Grazie davvero Razzali, buon lavoro, in bocca al lupo per il vostro master. Grazie mille, grazie a voi. Buon sabato. Άφηξη εκπτώσεων έως και 50% store. Τώρα, αντρικό μπουφάν Nike με fleece ή επένδυση πούπουλο στη μισή τιμή. Καλωσορίζουμε το χειμώνα και τα Χριστούγεννα με μπουφάνε Tyrell ανδρικό ή γυναικείο μόνο 39,99 και παιδικό μόνο 29,99. Era la pubblicità. Sono iniziati saldi in Grecia, la Grecia di cui abbiamo parlato tanto in questi mesi, ormai in questi anni, in questa Grecia avvolta dalla crisi. Ci ha incuriosito questa ripartenza, questa voglia comunque quotidiana di potercela fare, e i saldi anche potrebbero essere l'occasione per così tirare una boccata d'ossigeno per le vie di Atene, capiamo se è questa la realtà, e lo facciamo con Stefan Matteossian, un commerciante a diversi negozi di abbigliamento in Grecia e quindi anche lui preso dai saldi. Ciao Stefan. Ciao, ciao Federico. Come sta andando allora? 15 gennaio, primo giorno di saldi in Grecia, c'è movimento nei negozi? Si potrebbe dire di sì, perché la gente fino adesso non era uscito, diciamo, ai negozi, non si era fornito di quello che aveva bisogno, e allora adesso ha trovato l'occasione di farsi i fornimenti che i suoi bisogni, insomma. Certo, sono saldi reali? Parliamo di sconti? Certo, si potrebbe essere altrimenti. Qual è la percentuale di sconto medio? Vabbè, si va dal 30 fino al 50-60%, a seconda dei bisogni che ha ogni azienda, diciamo. Uh-huh. E questo significa per voi comunque poter fare un po' di cassa in questo periodo, cosa che non si è fatta in questi mesi? Sì. Ma comunque ci sono delle aziende in Grecia che sono più ben organizzate, che si potrebbe dire che, insomma, se la cavano, no? Uh-huh. Vabbè, che poi c'è un grandissimo problema nel totale, diciamo, del mercato. Ci sono tanti negozi che si sono chiusi perché, diciamo, che dall'anno scorso che abbiamo parlato le cose sono peggiorate, almeno fino all'autunno scorso, no? Certo. Poi adesso con il nuovo governo si sta facendo qualcosa, si può dire che siamo diventati un po' più seri e si, come dire, c'è una psicologia, diciamo, un umore un po' più... Insomma, c'è una ventata di ottimismo, ecco, così. Questo. Tu quanti negozi hai, Stefan? Uno o più di uno? Io ne ho, no. Io ne ho 4 negozi di Benetton, dove si vende abbigliamento di Benetton, e uno che ci sono i marchi un po' più, sai, quelli dei design. Ok, diciamo, perfetto. E tu comunque sei ottimista, nel senso che al di là dell'umore generale, il tuo umore personale è quello di... è buono? Sì, noi stiamo... Adesso, guarda, adesso in Grecia si sta parlando, siccome negli ultimi 30 anni c'era un'euforia, diciamo così, c'era un sacco di gente che si era voltato, diciamo, al commercio. Sì. Adesso si sta un po' pulendo il mercato, ci sono praticamente tutto, la scommessa è di stare in piedi e avere una porzione più grande della torta più piccola che ci sarà nei prossimi anni. Ok, insomma, mi sembra un ottimismo legato a un sano realismo e speriamo che sia... Poi, per dire la verità, sentiamo che adesso in confronto dell'anno scorso i nostri amici, diciamo, di Europa, sì, stanno più al nostro fianco, perché probabilmente vedono che adesso si sta facendo qualcosa sul serio. Ok, insomma, questo è fondamentale. Grazie davvero Stefano, in bocca al lupo per tutto, ci ritroveremo qui all'altra Europa nelle prossime voi. Puntate. Buongiorno, ciao. Buona domenica. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e va anche alla squadra dell'altra Europa, Margherita Ina e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci trovate su Twitter, su Facebook oppure sul sito radio24.it, da dove potrete riascoltare la puntata in podcast. Ciao da Federico Taddia.